140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola. Gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. Cinema e televisione nella nostra puntata di oggi di 140 caratteri. Sky Italia, Milano. Il fenomeno televisivo e social del momento si è concluso MasterChef 2. La vincitrice è Tiziana Stefanelli, l'antipatica che non lo era. Mi sento eccitata, felice, contenta, sono al settimo cielo. Com'è stata questa esperienza e com'è stato decidere di affrontarla? Perché io mi immagino, insomma, un avvocato con un profilo professionale molto particolare, molto alto, decide perché di fare MasterChef. Sul perché ci sarebbe da parlare a lungo, magari stessa su un lettino, però è stata una decisione d'impulso. Io avevo visto MasterChef prima stagione, ero una fan terribile di MasterChef, adoravo Danny Dannibale, facevo il tifo per lui e poi quando ho visto che facevano le audizioni per la seconda edizione è stata un attimo. Ho dovuto postare la mia mail. È stata una bellissima sfida. La tua creatività, Maurizio, contro la tua forza di volontà, Tiziana. Complimenti a tutti e due. Grazie mille. Il posto su questa pedana aspetta a voi. Quindi, prego, salite. Tiziana, all'inizio MasterChef per te era l'ennesima sfida in cui volevi dimostrare di essere la migliore. Poi qualcosa è cambiato. Non avrei mai pensato di vederti piangere dopo i complimenti di Alain Ducasse. Anche a te vogliamo dire che comunque vada, oggi hai superato te stessa. Ma come abbiamo sempre detto, il vincitore di MasterChef può essere solo uno. E il nostro giudizio si è basato solo sulla bontà dei piatti. Ma lei come è arrivata a cucinare così bene? Come si arriva a diventare non proprio uno chef, ma un MasterChef almeno? Beh, secondo me è una questione di talento innato. Cioè, o si nasce o intonati o stonati. E così si nasce, con una predisposizione per il gusto e i sapori, o non ci si nasce. Per me è proprio un dono innato. Quando assaggio una cosa, fin da piccola ho scoperto che comunque assaggiando i piatti riuscivo a capirne i componenti e il procedimento di preparazione, e credevo che fosse così per tutti. Mi sono resa conto solo da grande che non è così, e quindi insomma ci deve essere una base innata, e poi c'è tanto lavoro, certo, perché come tutte le cose che interessano si studiano, si approfondiscono, libri, internet, tentativi, prove, e alla fine eccoci. E da donna bisogna sempre lavorare il doppio, moglie, mamma, professionista e a casa cucina, in un mondo ancora molto maschile, sia quello degli avvocati che quello dei cuochi. Eh sì, un mondo troppo maschile, sia quello degli avvocati che quello dei cuochi, in cui non è semplice muoversi mantenendo la propria femminilità. Noi donne che ci troviamo a fare questo in questi settori, a volte dobbiamo tirar fuori un po' di lato maschile del nostro essere, e non riusciamo a affrontare questi lavori con la grazia e la femminilità che ci sarebbero più consone. Vince la seconda edizione di MasterChef Italia l'Avvocata! per lei. Una donna determinata che non ha mai smesso di credere in se stessa, non ha mai dubitato delle sue capacità, è sempre stata dura, tosta, non si è mai lasciata abbattere da nessuno. Quindi il suo prossimo obiettivo, tirare fuori Grazia Femminilità, visto che ha tirato fuori una tiziana antipatica che non esiste, che non c'è, io lo confermo, l'ho incontrata ora, non è per niente antipatica. Grazie, troppo buona. Nun, Milano. A costruire il mito di Masterchef, i tre terribili chef. Per Bruno Barbieri, un grande successo personale e una bella esperienza umana. Beh, come esperienza umana devo dire straordinaria. Masterchef è un programma che ha cambiato la vita di tanta gente, ma ha cambiato la vita degli italiani. Cioè, il giovedì sera quando gioca Masterchef, voglio dire, tutti al bar della Bocciofila a vedere la puntata come quando gioca la nazionale di calcio. È un programma che ha così amalgamato, ha cambiato un po' il modo di fare cucina in televisione e devo dire che è un programma che avrebbero voluto fare in tanti. L'abbiamo fatta con una grande professionalità, con grande serietà e ci siamo divertiti molto e credo che comunque lo si vede tutto nel programma e in quello che è il risultato finale di questo lavoro. Capolavoro. Ah, concordo. E nella sensibilità degli italiani nei confronti della cucina? Beh, devo dire è stato veramente un momento straordinario. Forse non ce l'aspettavamo neanche noi. Oggi, se noi guardiamo Twitter, i grandi social network, Facebook, la gente si racconta, la gente fa le prove, la gente cucina a casa, la gente ha, voglio dire, questo programma ha cambiato qualcosa, ha dato la possibilità anche a piccoli produttori a cambiare proprio il modo di pensare non solo alla cucina ma anche di produrre. Cioè abbiamo, credo che attraverso questo programma abbiamo rilanciato una storia italiana, una storia che è fatta di tanto lavoro, di tanta gente e poi vedo che anche nel mondo politico sono venute fuori un sacco di cose e questo fa bene perché io credo che il vero grande Made in Italy non è solo, con tutto rispetto, la Ferrari o Giorgio Armani o Dolce Gabbana o quello che è, comunque è anche il cibo, un territorio, l'Italia è un territorio straordinario e noi ce ne accorgiamo quando siamo all'estero di quanto noi italiani siamo bravi e quindi attraverso Masterchef abbiamo avuto la possibilità di raccontare la storia anche di tanta altra gente. Chi è Bruno Barbieri? Raccontano che è un cuoco. Piano si accende, striscia e dà vita al cielo. Io vengo da un paese che si chiama Medicina. Questo paese è famoso per le cipolle, quindi Bruno Barbieri non poteva altro che diventare un cuoco. Scende, colora, vivi dal fiume e il ponte. In realtà il mio vero grande sogno era quello di fare il calciatore. Poi ho avuto la grande fortuna di nascere in una famiglia dove il cibo era qualcosa di importante e mia nonna, che è stata un po' la mia musa ispiratrice, mi ha insegnato a cucinare e mi ha insegnato a diventare il buon barbiere. Cosa auguri al vincitore di quest'anno e ai ragazzi che sognano di fare il cuoco, magari anche guardando Masterchef? Beh, devo dire che allora, la seconda domanda, cioè quella di che cosa auguro ai ragazzi, auguro un sacco di cose, auguro un sacco di... auguro di provarci, nella vita bisogna provarci, voglio dire, poi non tutti magari ce la possono fare, però l'importante nella vita è non mollare mai. Vincitore di quest'anno cosa auguri? Gli auguro tanta strada, gli auguro di avere nel futuro un buonissimo lavoro, di entrare magari nel mondo della ristorazione, gli auguro un sacco di cose, poi se la deve giocare, noi abbiamo dato la possibilità di provarci, poi dipende da chi, da che cosa vorrà fare nella vita dopo. Tanto complimenti per il nome, complimenti anche per gli orecchini, meno complimenti per questo pelo. Niente mappazzone, giuro. Un mappazzone. Era l'onda, allora. Questo cosa vuol dire? Tu non sai resistere però alla tentazione del mappazzone. Li mettiamo nel piatto e poi è finita. Vi assomigliate un sacco. Sì. A Napoli si dice togli il don e aumentimi la settimana. Ok. Non l'ho capita, comunque. Oh, non l'ha voluto? Secondo me l'è bruciato. Al taglio è un mappazzone. Mappazzone. Un frisbee. Tu hai introdotto il termine mappazzone nel vocabolario italiano. Beh sì, devo dire che è molto divertente. Il mappazzone non è una parola che mi sono inventato, è una parola che nel bolognese, io sono bolognese, esiste veramente. Cioè il mappazzone sta per, cioè hai fatto una mappazza, hai messo un casino di roba dentro un piatto e alla fine non sai neanche tu il perché l'hai messa. Io dico sempre solo una cosa, dentro il piatto ci deve essere il tuo io, e quindi questa è la chiave, ma anche nel nostro lavoro, per vincere, per arrivare, per fare qualcosa di importante. Grazie. Viva il mappazzone! 140 caratteri, una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. Cinema e teatro nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Terrazza Martini, Milano. Il libro di Nikolaj Lilin, il film di Gabriele Salvatores, John Malkovich, Bravissimi giovani. In anteprima il lancio di Educazione siberiana. Gabriele, regista milanese, un film internazionale, un red carpet milanese, che esperienza è questa? È un'esperienza mista, allora, se la metti così. Sì, no, io poi sono di Napoli, quindi figurati, sono cresciuto. No, beh, è un'esperienza importante perché è un film per me di tante prime volte. Il primo film girato in inglese, il primo film con attori stranieri, americani, con cui non avevo mai lavorato, e anche il primo film con una produzione in cui non sono direttamente coinvolto come produttore, e quindi spero che apra una strada, perché mi sono divertito, ho imparato molte cose a fare questo film. È stato faticoso, ci ho lasciato 5 kg da quelle parti in Russia, però adesso il film c'è, adesso comincia il suo cammino nel mondo, lo affido al pubblico e speriamo che faccia una lunga strada. Hai letto le prime critiche, cosa te ne è parso? Ho letto qualcosa sul web, qualche notizia, qualche cosa, sono molto contento da quello che ho letto, poi vedremo le critiche vere e proprie. L'impressione è che sia un film pronto per un lungo viaggio? Speriamo proprio di sì, questo l'abbiamo fatto di tutto perché possa camminare a lungo, vediamo insomma. L'inverno sembrava non avere una fine e il branco moriva di fame. Il capobranco, il più vecchio di tutti, procedeva in testa e rassicurava i giovani dicendogli che presto sarebbe arrivata la primavera. Ma a un certo punto un giovane lupo decise di fermarsi. Disse che ne aveva abbastanza del freddo e della fame e che sarebbe andato a stare con gli uomini, perché la cosa importante era di restare vivo. Così il giovane si fece catturare e col passare del tempo dimenticò di essere mai stato un lupo. Un giorno, di molti anni dopo, mentre accompagnava il suo padrone a caccia, lui corse servile a raccogliere la preda. Ma si rese conto che la preda era il vecchio capobranco. Divenne muto per la vergogna, ma il vecchio lupo parlò e gli disse così: «Io muoio felice perché ho vissuto la mia vita da lupo. Tu, invece, non appartieni più al mondo dei lupi e non appartieni al mondo degli uomini. La fame viene e scompare, ma la dignità, una volta persa, non torna mai più». Nikolaj, che impressione ti fa un'occasione del genere, un red carpet del genere? Niente, aver raggiunto un top vuol dire che tutto quello che ho fatto ha funzionato bene, sono molto contento. Tu l'hai già visto il film, finito? Che impressione ti ha fatto? Ho visto il film nell'ultima fase di montaggio, non l'ho ancora visto finito. Che aspettative hai? Ti fa paura vederlo sullo schermo? No, l'ho fatto anch'io, ho collaborato, quindi per me è una bella occasione confermare ancora una volta l'efficienza con cui abbiamo lavorato tutti, quindi vado solo per divertirmi, per vedere una bella storia. Per i nostri antenati liberi guerrieri e cacciatori, per le nostre grandi foreste del nord, per i fiumi Liena e Amur, noi ti preghiamo. Maestro Pagani, ci rivediamo dopo qualche giorno per un'occasione molto diversa, sì. Però com'è stato lavorare con Gabriele Salvatore? Beh, fantastico, io è il quarto film, ho la fortuna di fare con Gabriele e devo dire mi sono sentito onorato. E poi mi è piaciuto tantissimo prima il romanzo e poi il film, quindi è stato lungo ma mi sono divertito molto e come al solito ho imparato un sacco di cose, però insomma la storia era bella, mi sono divertito. Vi conoscete da qualche annetto lei e Salvatore? Sì, 33, una roba così. Ma è vero l'aneddoto secondo cui De André c'entra con la sua amicizia con Salvatore? Ma sì, perché in realtà io ero in una sala di registrazione poco fuori Milano a registrare la colonna sonora del Sole e Notte d'Estate, il primo lavoro con Gabriele, e nello studio di fronte De André stava registrando L'Indiano, e siccome era uno studio residenziale ci siamo frequentati per un mese tutti i giorni e forse dire stupidaggini insieme siamo diventati amici. Beata Vergine Maria, Madre di Dio, piena di grazia, ascolta le parole del tuo umile servo, perdona noi onesti criminali per i peccati che siamo costretti a commettere. Aiutaci a combattere i politici burocrati assetati di potere e i loro tirapiedi, gli sbirri e i soldati e tutti gli altri diavoli in divisa. O Santa Madre del Santissimo Dio, benedici le nostre armi, tempra i nostri coltelli, indirizza i nostri proiettili e consacra noi così che la nostra ira possa diventare la tua. Colima. Diego, con che spirito si va a vedere un film di Salvatore? Beh, per me è anomalo, perché non ci sono nel film. E quindi per me è un po' diverso. Sono sicuro, come sempre, di divertirmi, perché sul talento non si dubita mai. E purtroppo sulla lingua inglese io vacillo. Era questo quindi il motivo che ti ha allontanato? Credo, spero di sì, io voglio pensare che sia così. Sono sicuro che qualcosa sarebbe saltato fuori di interessante. Il fisico c'era, eh? Per fare cosa? Dillo. Non so, un criminale siberiano, si può dire? Sì, sì. Di quello che vuoi. Detto da te va bene. Grazie, Diego. Ciao. Piccolo Teatro, Milano. A Milano un mese di spettacoli, incontri e reading per Giorgio Gaber, a cui verrà intitolato il suo lirico, la figlia Dalia Gaberschik. Un regalo a Milano, secondo me, dovuto, perché in un anno dove sono successe così tante cose, il triplo CD di cui abbiamo parlato, il libro della Mondadori, lo speciale televisivo, non fare niente a teatro nella casa di mio papà, perché il teatro è sempre stata la casa di mio papà, sarebbe stato un errore. Questa rassegna punta proprio all'incontro live con le persone attraverso gli spettacoli, attraverso gli incontri nelle scuole, attraverso la mostra, e speriamo che, come è successo in passato, sia una manifestazione gradita ai milanesi, però dai primi dati che abbiamo non ho motivo di dubitarne. Come avete scelto le opere, la mostra, come l'avete organizzata? Insomma, è talmente vasto il repertorio da cui attingere. Noi siamo molto appassionati a questa idea della divulgazione, che sappiamo che stava molto a cuore a mio papà, per cui siamo andati a ragionare su quelle che sono le opportunità di incontro più proficue proprio per il mondo dei giovani, per quello che può essere. Luca e Paolo sono stati un evento straordinario da questo punto di vista, così come sono state importantissime le partecipazioni, le collaborazioni che abbiamo avuto in questi anni anche dai cantanti beniamini dei giovani, no? E io credo che in questo senso si sia ragionato, proprio accrescendo moltissimo il numero di incontri nelle scuole, di cui avevamo parlato, ma insomma quello è veramente un fatto eccezionale. Siamo l'unica fondazione a farlo e l'idea che i ragazzi arrivino con la gioia di saltare un'ora di fisica e poi magari invece sono tutti contenti perché vengono travolti da qualcosa di molto più interessante mi fa piacere. Siamo sempre tutti portati a pensare che i giovani siano PlayStation e telefonino, invece io sono convinta che siano molto di più. Aspettiamo ancora una bella piazza Gaber, quella non c'è ancora, però potrebbe arrivare il teatro lirico trattino Giorgio Gaber e non è male. No, è fantastico, quella è la casa di mio papà e a me l'idea che questo teatro sarà titolato lui mi fa veramente piacere. So che non è una cosa che succederà nei prossimi mesi, sono tempi lunghi, c'è tutto un lavoro di ristrutturazione da fare, però se i miei figli o anche i miei nipoti potessero dire vado al teatro Gaber, a me mi fa davvero molto piacere. Ed è tutto per il 140 caratteri di questa settimana. Continuate a seguirci ogni giorno seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. L'appuntamento in radio è per domenica prossima.